Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a tutti gli ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci di nuovo qua, Antonio, per così per cercare di passare con i nostri ascoltatori un'ora serena. Piacevole, diciamo, e serena, sì. Giustamente. Si comincia a sentire un po' di odore di primavera, chissà che... È sempre benvenuta. Hanno detto che arriverà verso il 20-25, speriamo che sia vero. Attendiamo impazienti e intrepidi. Allora, a te la parola. Allora, noi iniziamo naturalmente con un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per consigli, proposte e suggerimenti è il 346 23 20 033. Naturalmente ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. E non dimentichiamo un cordiale saluto al nostro regista. Certamente. Bene, bene. Allora, stasera si parlerà di Padova. Avremo al telefono un ospite virtuale che è il dottor Suman di Padova. Però prima di tutto ci ascolteremo una canzone, come al solito una canzone in dialetto padovano, cantata da Umberto Barcato, che è intitolata Prade Avae. La la la la la. Umbra che noga erba el senararita. El prade avae famoso, el senestasita. Pare che isoga circo io, torno e a canaeta. Tutti quei grandi uomini, par chi sia là che spetta. Lorire sinta gli alberi, come par protezion. Dei voce che sugato e ha, e senza remission. Ma par fortuna che Santa Giustina, guardando in basso da Ascaina, e ha buta ogni tanto uno ciadina, par controare come che va. Pare che isoga circo io, torno e a canaeta. Nessuno sa spiegarsi o par cosa i resta là. Forse sta bea congrega e a sega lusinga di fare un fiade ordine nella nostra società. Di fare un fiade ordine nella nostra società. Torno e a canaeta, pari chi sia là che spetta, lorire sinta gli alberi come par protezion, dei voce che sugato e senza remission. Ma par fortuna che Santa Giustina, guardando in basso da Ascaina, e ha buta ogni tanto uno giadina, par controare come che va. Pare che isoga circo io, torno e a canaeta. Nessuno sa spiegarsi o par cosa i resta là. Se sta bea congrega e a sega lusinga de fare un fiade ordine nella nostra società. De fare un fiade ordine nella nostra società. Eccoci di nuovo in studio e in linea il dottor Ugo Suman. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera, dottor Suman. Buonasera. Un cosa è domenica, è una domenica di Quaresima. Ecco. Ecco, ora parliamo della Quaresima del 1930, degli anni 30, in un paese, nei paesi di campagna, quando gli era su 8.000 persone, 7.990 che andava in chiesa. E quindi comandava, come si dice, il prete, e la Quaresima gli era sentita, era vissuta anche con la fede semplice che aveva, gente umile e analfabeta dei campi. E gli era sempre anche uno spettacolo nuovo ogni anno, perché gli dava in cerca i parroci dei predicatori della Quaresima, che doveva essere non soltanto esperti per quel che riguarda la teologia, ma chi deve avere anche una voce motivatori una voce abbastanza stentoria perché non c'era impianti, non c'era microfoni, non c'era niente, giusto, parlavano dal pulpito . E quindi bisognava che la gente stesse attenta e silenziosa, e che questo avesse una voce buona, se no non io voglio neanche. E ora li trovava sempre, era un mare ora perché ne era tanti, i predicatori, i frati, e se gli era scalzi gli era meglio ancora, perché la gente faceva più colpo, si aveva barba meglio ancora, quasi sempre in gladiatore qui aveva barba. E dopo la gente frequentava, ascoltava, cercava di capire, ma giudicavano sempre l'ultima predica del Venerdì Santo, che raccontava la passione di Cristo. Se si commuovevano, se la gente si commuoveva, specialmente le donne, era buono e allora tornava un altro anno. Se no, se non si commuoveva nessuno, vuol dire che non gli ha fatto piangere, che non gli era stato buono descrivere la scena della crocifissione, il dolore della Madonna, eccetera. E quindi il parroco andava su un'altra parte. Ecco che gli era particolari, che magari adesso non guarda nessuno, ma ora la gente umile era abituata a fare queste scelte e partecipavano tutti a questo periodo quaresimale, anche col digiuno, l'astinenza, che era là, che il digiuno lo faceva sempre perché è poco da mangiare, e anche l'astinenza io faceva naturalmente, ma cercava di fare qualche sacrificio, perché gli insegnava, gli credeva che servisse per andare a cancellare i peccati e tutte le storie che sappiamo che adesso la gente ride. E quindi questa gli era la partecipazione, e anche gli si preparava per Pasqua, che è la festa più importante di tutto il cristianesimo, perché se non fosse stata la resurrezione, se Cristo non fosse risorto, come che ha detto anche San Paolo, la nostra fede sarebbe nulla, non sarebbe niente. Quindi era più forte del Natale, e il parroco pareggiava tutto quanto e preparava i fedeli, e quindi gli era una partecipazione che, anche se non gli era attenta come si vorrebbe adesso, era totale del paese a turni, perché gli era i cesi di volte che non bastava neanche. Adesso non è così. Adesso non è più così. E dopo che gli era dei particolari che faceva storia, per esempio un anno nel paese che di Umi, gli chiamò un frate Cristoforo, che gli era da Castelfranco per caso, ecco, un frate Cristoforo che aveva la barba e la statura, la voce stentorea, come è fra Cristoforo dei Promessi Sposi. Ecco, e allora là succedeva che il parroco, siccome non aveva letto nessuno i Promessi Sposi, tranne che qualcuno che magari aveva studiato, eccetera, e contava la storia dei Promessi Sposi, di Don Abbondio, che gli era un parroco da niente perché c'era far paura, Don Rodrigo, che gli era un assassino che faceva questo e quest'altro, che gli portava via Cia, eccetera. Dopo incontrava il famoso discorso che ha fatto fra Cristoforo al coso, al Don Rodrigo, e che lo va a minacciare in nome di Dio, una storia altra. E dopo gli era così importante questo frate, così bravo da predicare, che è morto Don Rodrigo dalla peste. E ora la gente dice: attenta, perché sto frate che somigliava proprio alla descrizione, ma allora non sapeva niente dei Promessi Sposi. E ora che gli era però le suore delle ducandato, quelle che aveva letto i Promessi Sposi, erano quei ciacquava, quelle donne che diceva guarda che il parroco che ha fatto così per dargli importanza, perché se è vero tutto quello che gli ha detto della cattiveria di Don Rodrigo, dei poveri Lucia e Renzo che si sta insomma assassina mesi, ecco, però Fra Cristoforo è morto sì da peste come tanti altri, ma non perché gli ha sentito le prediche e cercava di equilibrare appunto le così le ciacque della gente, perché ne parlava e diventava come si dice una roba di ciacque, una storia da contarsi per una settimana intera. Ecco, gli erano momenti particolari, ma quello che mi resta in mente che la gente ha qui che ha vissuto come me gli era che la fede allora non aveva i perché che abbiamo adesso gli altri, e quindi gli era semplice, ma gli era documentata la natura, cioè loro la vedevano Dio nella natura, nel miracolo della natura, che è un miracolo continuo, e la natura sì. Comprende anche gli uomini, ed è un miracolo anche personale, perché non vede nessuno dei noati che abbia la carica per far funzionare il cuore, o no. Tanti altri meccanismi. Magari. Fa anche qui parte del miracolo della natura, anche in prima fila, quindi e capiva queste robe qua e basta, e partecipavano con una fede appunto limpida, sincera e soprattutto, come si può dire, erano convinti proprio. Erano convinti, sì. Perché la fede più grande era quella dei semplici, diceva anche altri predicatori, quella dei semplici che non hanno perché. I perché non li aveva, perché non sapeva niente, quindi li era colti. Però i perché anche dei colti che adesso, dei cosiddetti sapienti, finiscono sempre in polvere, non risolve niente, perché sicuramente, come dimostra e dimostra continuamente la storia, il perché della vita, della morte, della natura, eccetera, non lo sa nessuno. Il creatore ha creato gli uomini apposta, incapaci di capire il divino, quindi tutto quello che fa sono immagini, ragionamenti, anche i teologi che camminano per i specchi per dimostrare questo, non si può dimostrare, uno o lo vede nella natura, Dio, che se fa sì è per tutti, fuori che per gli orbi, oppure non crede, perché i ragionamenti non portano a fede, anche la teologia, per cui che la studia, non risolve i problemi. E se la teologia nasce da dove non sia fede prima, non serve proprio a niente, anche se fa libri interi, anche se fa conferenze, non conta niente se non c'è la fede. Ma la fede nasce proprio dall'umiltà e forse anche dall'ignoranza delle volte. Penso questo sì. Resta tante volte lo studio, la conoscenza, dopo fatta male, anche rovina in parte quello che dovrebbe essere un capitale normale per una persona umana, perché è l'unica che ti dà sostentazione, se che dice, no? Sostentamento, che ti sostenta e che ti dà conforto nella vita, anche se non siamo buoni a capire perché mi capita mister roba, perché come i tumori che capita sempre agli altri, se ti capita di ma perché il Padre Eterno proprio a me? Sì, la domanda che si è sempre fatto gli uomini. E in quei quaresimi, per cui la gente ha del mondo agricolo di ora, perché adesso che sono tutti laureati, ecco, e era robe vere, robe sacrosante, robe da tenere del conto, robe importanti, l'ora che perdeva andare a predica era guadagnare più che andare a lavorare, e credeva anche se rimetteva che cosa, insomma. Però è una gran fortuna aver fede, una fede incrollabile. Appunto, sì. Ti aiuta a vivere? Che se compra e che uno si mette scarsa. Perché è un dono, evidentemente. Fede, è una lotta continua, sì. Giornaliera, certo. Ogni momento della vita devi un perché. Sì. O per conto tuo, o perché te vedi degli altri, quindi non sai che uno che ha fede sta sempre pacifico. E per fede i santi, nella storia che dice che tante volte ha fatto apposta e che ha avuto tentazioni continue. Ci fermiamo un momentino per ascoltare la canzone e poi dopo riprendiamo. Va bene. Allora, Antonio, sì. Tu hai detto che offri una rosa a tutte le signore. A tutte le signore, ecco, naturalmente. Allora una rosa da Vienna dei New Christy Minstrels. Ecco, ascoltiamo. grazie Antonio Della Rosa. Dovere mio. Adesso abbiamo ancora il nostro dottor Suman. Dottore, io volevo chiederle, il nome Quaresima deriva da 40? Sì, 40 giorni che esiste. Ma la Quaresima che sia sempre esistita da quando c'è... Adesso non mi ricordo, ma significa i 40 giorni dalla risurrezione di Gesù. Ecco, Antonio voleva farle una domanda. Sì, noi sappiamo che lei è originario della zona di Rovigo, eccetera. Come si viveva anni fa, qualche decennio fa, nella zona di Rovigo e provincia, lo spirito della Quaresima? Padovana, esattamente, anche a Bassa Padovana, sì, esatto. No, si viveva degli anni 30. Uno non può neanche credere che quando che vieni qua qui da Albania, da altre parti. La miseria nera. E viene qua perché dice poveretti, ieri ma così. Invece, paesi interi che non avevano la luce, non avevano neanche parlare, né acquedotto, né acqua, né gabinetti, né niente. Invece la gente se lavava quando andava bene l'inverno, una volta a settimana sul Masteo, vicino al Fuguaro, perché gli era posto più caldo, oppure qui che aveva staia con bestie. Esatto. Ecco. Ed estate quando che pioveva, dice, poi andava sotto temporale a fare la doccia quando che era luglio, agosto, e se no ora se lavava di più e basta, ma se no tutte le mattine anche qui che andava a scuola se lavava il viso e mani, reci e collo e facce, non che era altra. E dopo la vita era povera perché non che era risorse, si viveva della terra e quindi i schei era roba da signori. Ecco, scarpe per esempio, andate scalzi appena che veniva possibilità, andate scalzi per sbagliare scarpe perché io sono qui da domenica. Il Zero invece ha detto marzo ogni matto va a scalzo. Ogni matto, ecco, andate scalzo per necessità, specialmente i putei, che correva, che aveva problemi. E comunque... E era una situazione che a contarla adesso pare una favola. No, sembra che sia lontana secoli praticamente, invece se pochi decenni, diciamo, eppure i nostri progenitori vieni da quel mondo là. Anche mio ho studiato qua a Candela a sera edizione perché casa mia dove stavo mio sono mio padre e quindi è tanta roba, ma in che paesi là a Correnti era vista nel 57-58 strade era corrente che ora perché ha messo tanto a pensare da tirarsi in casa perché tanti che aveva a casa un poco lontana era una spesa e anche qua costava abbastanza. Sì e toccava far spendere abbastanza schei e dopo gli ha paura perché diceva che c'è pericoli, che erano molto dei discorsi poi restare a folgorare schioppare un padino, tutte storie così. La gente era abituata a Candela, il ciaro carburo e il ciaro petrolio. Qui era la luce. Mi ricordo. Sera. Ecco perché se legge dei componimenti miei, che è scritto che quando per esempio è a fine della descrizione della strada, ecco, non è trovo queste robe nei quattro ciacque, bisogna che vada dei libri, uh-huh. Alla fine della descrizione della strada, della volta, di terra, quei passaggi parte per parte, i grigli e i rane che cantavano, i fossi, che era sempre acqua, e qua sera dopo il tramonto si vedeva i ciari pisarsi per le case, nel verde della campagna che era queste casette, spampanana parte altra, distante una dall'altra, si impisava i ciari, ora era qui che impisava la Candela, qui che impisava il ciaro petrolio, qui il ciaro carburo, quello era il carburo, sì, quello, certo. l'ultima novità durante la guerra praticamente, sì. Ma anche là che era di pericoli perché bisognava prepararlo eccetera e ora la maggior parte per evitare tutto o il petrolio o la Candela e non altri tosi di ora a giocavimo a indovinare se quella era una Candela, un ciaro di Candela o un ciaro del petrolio, un ciaro del carburo, che era una differenza grande perché nella notte a ora che era buio e buio quando era la luna faceva chiaro la strada, il bianco della strada per dire se... sì, perché rifletteva. Esatto. Non era nessuno, nel silenzio di tomba, si sentiva qualche can sbagliare e basta, e delle volte le galline che si inquotavano sopra i gnari, sopra i tralci dei legni, sopra gli alberi, delle volte che era qui che faceva il ponaro insieme agli alberi con una scaletta sottile che non andava su neanche un gatto, e là era più sicure. Così, ecco, non si sentiva niente, quindi se vedeva questa differenza della luce, perché allora impisciare una Candela, per esempio, Anuati che hanno fatto le prove, a parte divertirsi perché mi insegnava quando andavo a scuola, guardate che la luce di candela è un'altra roba, ma è come una lampadina che illumina tutto, sparge la luce, e la candela in notte se ti accendevi e faceva un buso nel scuro tutto torno, dopo la povera aureola che faceva del giro, era notte ancora. Mentre invece quando vedevi le lampadine sparava la luce distante, ecco, che gli era una differenza, insomma, e così anche nell'illuminazione agreste, che gli era una differenza, c'era il carburo, che era la luce più potente, e c'era il petrolio, che gli era spenta perché gli era il canfin, eccetera, invece la candela era la luce più poveretta, però gli poteva impissarne come lo facevano altri, due o tre, torno alla cucina e ora c'è la luce più... Ecco, una domanda sulla Quaresima e gli spettacoli. Lei sa che il colore viola naturalmente è vietato in teatro e cose di questo tipo. Sì, ma anche i balli, eccetera. Ecco. Poi si apriva una sala, si andava a ballare durante la Quaresima, non si sposava nessuno. Tassativamente vietato, giusto? Sì, era una roba comunemente vietata. Una mancanza di rispetto nei confronti, diciamo, dello spirito religioso. Che esattamente. Allora l'unica struttura, diremo, anche come si può dire culturale, veniva dal pulpito, insomma, la chiesa, la religione, era tutto, era la cultura massima che aveva la gente, conosceva i passi della Bibbia, le storie dei profeti, perché li sentiva dal pulpito. Sì. E quindi quello che diceva la chiesa, niente ballo, niente questo, niente quest'altro, e veniva fuori che anche qui che si impegnava di Tosi, e lì era Mantegnelli. Ecco, io facevo perché se non gli davo i sacramenti, se io non lo facevo l'atto coniugale completo. Ah, sì. Ecco, ai poveretti, ai sioli che andavano in casa di tolleranza o che era madre, ora gli serrava un occhio, è un momento storico che altri adesso tempi. Non ha più riscontro, insomma, altri non tempi. Ha più riscontro perché si è perso che il senso morale, che gli era esagerato. Ma che serviva a far nascere uomini? Esatto. Adesso invece che sta una pendolazione nell'altro senso, naturalmente. Questo sì, questo. Nel basso padovano no, non ci sono le risaie, vero? No, siccome io sono. No, era sì, le risaie che era no, sulla bassa, oltre Rovigo. Sì, verso Mantova. Il canape che era Rovigo. Che era che c'è di paesi ancora, per esempio Maserà, che è in provincia di Padova, era dove che faceva marcita. Qui che allevava la canape per fare filo, e che aveva marcite, dove che metteva moglie e cane, finché si spugnava, e dopo gli batteva e gli faceva, gli cavava il filo. E quella che era la canape, che era insomma, cultura più estesa. E dopo i soliti, Barbabieto e Formenton, perché più che tutto il mais e Formento. Che è bello però ricordare queste cose, vero? Ma insomma bello sì, per cui che l'ha vista, che può immaginarsi, ma per cui che non l'ha vista, siccome è cieco, è un cieco, ho sperimentato andando in giro anche per queste robe qua, non ho mai pensato a questa roba, un cieco nato non può immaginare né una fisionomia umana, né un albero, né un cavallo, né una bestia, non può immaginarlo perché non lo ha recepito, non è nel monitor della sua mente, perché non ha potuto vederlo. E quindi anche i tosi di adesso si sente sti racconti, raccontare che la vita non possono immaginarla perché non l'hanno vista. C'è storia del mondo diverso, diciamo. Anche. Però sempre storia, insomma. Storia. È sempre storia che secondo me vale la pena. Cose che... nuove. Vale la pena. se viene ciapà come motivo di esempio, perché anche nella povertà, adesso vedete, mi ha telefonato anche ieri una signora che mi vede a televisione, che ha detto che ha letto un libro, lo scrittore che conosco anche, che ha detto che siamo nati tutti per caso, e invece è una sciocchezza, siamo nati per caso, ma se noi pensiamo e vediamo la natura, non c'è niente che va per caso, perché è il caso, come che dici gli agnostici, è una sciocchezza, perché il caso è disordine totale, se non andiamo, se guardiamo attorno, c'è un universo che funziona al millimetro, non come cavolo magico, come che vuoi quello che lo guida, certo. Quindi è tutto perfetto, certo. E anche nelle creature, è il che ha messo l'istinto, perché i procrea, perché continua a sospeggere, è una condanna all'istinto, certo. Non è che gli faceva perché anche l'istinto gli portava a fare quello, e dopo era sempre qui che abusava, ma c'era questo perché questi, quindi nascevano per caso, perché quando gli capitava, ma perché c'era questa legge dell'istinto? Certo. E quindi ancora, adesso solo gli gioca su queste robe qua. Lo so. Signor Subban, non vogliamo farle perdere altro tempo. Però, ecco, io saluto, ringrazio. Noi la salutiamo, e veramente è stato molto molto esauriente. Non si preoccupi. E noi siamo contenti di averla avuta ancora con noi in trasmissione. La ringraziamo. Grazie tanto tanto. E buonanotte. Buonanotte, grazie mille, grazie. Grazie. Ringraziamo ancora il dottor Subban e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è Che sarà, cantata da José Feliciano. Paese mio che stai sulla collina, disteso come onde che ho addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene lì in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra, se la notte piangerò, di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra, se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà. Allora, eccoci di nuovo in studio. Cosa facciamo adesso, Antonio? Adesso vorrei leggervi alcune, per quanto consente il tempo, alcune storie, alcune letture da Quattro Ciacoe, periodico di cui Ugo Subban è stato una colonna ed è una colonna portante. Naturalmente chiedo venia per il mio padovano, che non sarà perfetto, ma io cerco di mettercela tutta. Ah, è tutta scritta in dialetto? Sì, sì, esattamente. Vabbè, la Maddalena del Lazzaro. Sto mese dal Soe che spacca i piere, ga nel giro dei soggiorni un par de santi dae vite e dae storie diverse, ma curiose. Se tratta de San Lorenzo, quello che gabrusto è a sua grea come la poenta, e Santa Maria Maddalena, la sorella di Lazzaro, è il morto risuscitato da Cristo, anche se già era in putrefazione. fra i devozioni popolari del mio tempo e del mio paese, che c'era anche quella per la Santa Maria Maddalena, che a partire dal racconto evangelico agacciapà a strada delle leggende e delle storie da fiò. E il Vangelo dice che a Maria, a sorella Marta e suo fratello Lazzaro, c'era grandi amici di Gesù, che lui andava spesso a trovare, restando ospite di riguardo. Solo che a Maria, a sorella di Lazzaro, non c'era la Maria Maddalena, come credeva la gente, ma solo a Maria. Infatti, nella vecchia sacrestia della parrocchiale de Olmo, che c'era un quadro, forse del primo Settecento, fatto da un pittore anonimo de Bonaman, che ritraeva Maria in zenocià ai piedi del Signore, che dopo aver bagnato i piedi del profumo, la che sugava coi suoi cavegi, fra lo scandalo degli apostoli che stava attorno. Se poteva dargli ai poveri quei schei, butta via nel profumo, i cadito al Signore, un fian cavoea par via che lui aveva accettato spreco senza parlare. Tutti sa cosa che gli ha risposto, che i poveri che sarà sempre e che invece lui resterà ancora per poco su sta terra. A dire il vero non c'era solo la gente a far confusione con le Marie del Vangelo, perché in realtà ce ne sono tre che si identifica come Maria Maddalena. Quella di Magdala, che si seguiva Gesù nella sua predicazione, l'immagine della donna mistica attenta alle robe dello spirito, la stessa che par prima asendà al sepolcro, che aveva visto l'angelo e che aveva avuto par prima fra gli umani la notizia della resurrezione, a prima anche che aveva visto risorto sotto le sembianze di un ortoan. Ve ricordeo che ga chiamava par nome Maria, ma se chiamava Maria Maddalena anche a peccatrice pentia, che galava i pieco e so lagrime e sugà coi so cavegi. La devozione dei fedei, e delle donne in particolare, se sempre sta rivolta a peccatrice pentia, più che a altre Maddalene, perché il perdono del Signore è il bisogno primario di ogni creatura. I piassarotti del paese, quei che stava de casa più all'osteria che in famiglia, e non se sa de cose se mantenesse, quando i vedeva qualche devota entrare nella sagrestia per via del quadro e della devozione, i se diceva fra de ori, sorridendo sotto i mostaci, «Varda ea, na Maddalena, puaretto so Mario!» Perché per lori e devote desta santa e doveva, per forza de logica, essere peccatrici e magari leggera più candide de avarechina, sti saltroni. Gesera una piccola congrega de devote, quasi tutte zitee o vedove, che non so ben il perché e festeggiava sta ricorrenza andando insieme a prima messa il 22 de luglio e il dì dopo San Lorenzo, che già era il patrono del paese. Penso che se fosse ancora al mondo, sto anno l'andaria deserto in pellegrinaggio in qualche luogo per rancurarsi il perdono del giubileo. Ma da una piccola indagine personale sull'argomento, e questo lo metto sulla pagina come una confidenza, non sei tanti fra i credenti che senta sto anno giubilare come l'anno del perdono. I più sei convinti di non aver bisogno del perdono e che il tutto si risolva in un giro de schei e una caterva de affari. Del perdono da ricevere da misericordia del Padre Eterno e da donare agli altri come prossimo, pare che non ve ne interessa più di tanto ai cristiani desti tempi. L'è un segno da meditare. Oh, bene, il padovano è un po'. No, una bella, un caratteristico proprio bello musicale. Ma è ben più musicale il nostro. Ma diciamo che non c'è contesto, insomma. Ecco. Anche a Castelfranco parlano un po' il padovano. Si avvicina naturalmente. Sì, abbastanza. Sì, io, certo, sì. Certo. Vabbè, allora ci ascoltiamo un'altra canzone. Benissimo. Bene, allora ci ascoltiamo, cantata da Johnny Dorelli, Monte Carlo. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar scerì a Monte Carlo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, o scerì con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel per noi brillare. Torna qui da me, a tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. No, non dimenticare questo azzurro mare, Oh, oh, chérie, ritorna a Monte Carlo. Dopo l'imbruni, bella da impazzire, splenderà di luci Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu. Oh, chérie, ritorna a Monte Carlo. Passato, se ritorni non andrà perduto, non tardare più, manchi solo tu, oh chérie, ritorna a Monte Carlo, oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Ed eccoci di nuovo in studio con un altro dei racconti da quattro ciacoe di Ugo Schumann. È il santo della foresta. Quei dea bassa che senati agli albori de sto secolo morente, sa che tante delle nostre usanze e anche devozion si mescoeavo con quelle del Rovigoto, del Ferrarese e anche del Ravenate, che per via del porto e del mare comunicava con Venezia, traversando la nostra terra nel giro dei canai. Così a devozion, o meglio, a conoscenza di un santo che se sta vescovo di Ravenna nel secondo secolo, si arriva anche a Nea Bassa. E si chiamava Apollinare, e se sta vescovo e martire nella foresta de Classe, vissin a Ravenna. A sua storia si contava nei fiò, ma agera anche sostentata ai richiami del clero a uso dei fedei, nel senso che, a sostanza de sto santo, se sta a sua dedizione intiera verso i poareti e i perseguitati, che al tempo c'era tanti. Adesso sto santo è il patrono de Ravenna e a sua festa casca il 23 de sto mese. A sua storia è tutta mescoeaco a leggenda in gran parte tramanda oralmente per secoli e secoli. Ravenna c'era una città de mare e poco distante, 5 chilometri, c'era il suo porto fatto costruire da Augusto, Portus Classis. La Basilica de Sant'Apollinare in Classe se sta eredità da Giuliano Argentario e consacrata nel 549. Adesso tutto torno che se la pineta, al tempo della Basilica del Porto che era la foresta, una foresta infestata dei briganti come ai tempi del passatore. La gente del porto se sta prima evangelizzata dal vescovo Apollinare e fra i primi cristiani della sua diocesi, se si chiamava così anche ora, una famiglia del porto che viveva di facchinaggio, vuol dire scarico e carico dei materiali trasportati ai navi. C'era stata sua predietta per la fede e la pratica cristiana di ogni virtù. E il cognome, che si sentiva contare, che aveva del curioso, e si chiamava Pelloni, lo stesso cognome del famoso brigante e il passatore, che secoli più tardi c'era nato in quelle zone. Sta famiglia, brava e buona, non c'era sempre ben vista da quei che si serviva dei sobrassi, del suo lavoro, e specialmente se c'era de mezzo dei fatti che riguardava la religione e robe si ne aspriva al massimo. Se capitava un tae che veniva dall'Oriente su una nave carga di ogni ben de Dio, e il ga accusai i peoni di essersi impossessati a sua merce preziosa e varda caso pardarghe al vescovo Apollinare. I discorsi e prove e testimonianze, anche quella del vescovo, non ha fatto cambiare idea a sto personaggio potente e cattivo. È che ha fatto incatenare il capofamiglia e anche uno dei suoi fioi e portà prigionieri dentro a sua nave. E pretendeva un riscatto pari al danno subito da tutta la famiglia e la gente del porto, pena a morte di tutti i due ostaggi. E il vescovo Apollinare che ha fatto di tutto. E che domandà a quei che nel porto aveva autorità anche sui navi a tracà di aiutarlo, di fargli giustizia a un uomo ingiustamente accusato e tenuto prigioniero fuori di tutte le leggi. E gli ha fatto parlare a un prevosto del logo che gli aveva autorità e stima fra quei che scaricava e caricava le navi. E gli ha fatto pregare, ma tutto se sta niente. E ora il vescovo ha deciso di andare sulla nave a parlare direttamente col diavolo, perché solo un diavolo poteva avere tanta malignità e cattiveria. Dopo più di un tentativo le riuscì a vedere a parlare con sto orientale, che non si sa ben da dove saltasse fuori, e neanche se si conoscesse il nome. Per liberare i due prigionieri innocenti è il vescovo che si è offerto come merce di scambio. E il fatto ha avuto brutte conseguenze per il vescovo. I due prigionieri si sta liberati fra la contentezza di tutta la famiglia e anche della gente del porto, ma del vescovo non si sa visto più niente per 2 o 3 giorni. Dopo, una notte che tornava dalla pesca uno del logo, e che ha visto sulla spiaggia una luce come un raggio del sole, e si è avvicinato e ha visto che si trattava del vescovo Apollinare, vestito coi paramenti da messa e col suo pastorale in pirà sua pancia, trafitto col suo stesso pastorale. E c'era proprio il pastorale che sluseva nella notte come segno divino che chi muore cercando giustizia a favore dei poveri e dei oppressi vive eternamente nella gloria del Signore. Una fine degna di una fiaba, ma anche della vita di un santo. Per questo, e in particolare fra la gente de Avae che viveva de pesca, a devozione a sto vescovo, difensore degli oppressi, se ga diffuso e ga durà per secoli, anche se il nome pareva un poco fuori dalle nostre regole. Apollinare, un gloria patri perché il neiuta che insegnava e mame e soputei, un gloria patri perché i santi se ne a gloria del Signore e solo per questo può darne una mano nel bisogno. Qualcun penserà che si tratta di un'illusione, può darsi, ma ne ha fatto buona compagnia. Beh, però scrive molto bene. Molto eh? Bene. È anche spiritoso. Sì, anche... decisamente, decisamente. Ti ricordi del passatore cortese? Passatore cortese Stefano Pelloni. Re della strada, re della foresta. Ne ha fatte di tutti i colori. Certamente, ma era anche uno che cercava, come dire, di era un Robin Hood romagnolo. Rubava diciamo, i ricchi per dare per ai poveri. Dare i poveri. Ah, poi sì. Naturalmente c'è sempre la, come dire, la prevaricazione, eccetera. Però in molti casi nella storia chi era stato definito bandito dal potere dell'epoca poi è stato rivalutato successivamente. Sì, quindi bisognerebbe naturalmente, la storia sarebbe maestra di vita se non la scrivessero sempre i vincitori, naturalmente, sì, come è noto. Ecco. Piacerebbe sapere la storia di questo passatore cortese. Beh, diciamo che è stata romanzata probabilmente, sì, beh, però certo. Sicuramente molto molto sì, penso che sia affascinante, molto credo, sì. Esatto. Comunque guarda, belli questi, simpatici proprio. Decisamente sono storie con, sì, molto, con molto piacevole. Santa Apollinare, sì. È una basilica che c'è a Padova, no? A Ravenna, questo a Ravenna? A Ravenna, Santa Apollinare in classe, quella più famosa. Santa poi, Apollinare, sì, sì, esatto. Sì. No, credo che ci fosse anche a di Padova, questo no? Non ne sono a conoscenza, non escludo. Guarderemo. Certo. Vabbè, allora cosa facciamo? Ci ascoltiamo un'altra canzone? Un'altra canzone, naturalmente. Vabbè, allora ci ascoltiamo adesso da Toto Cutugno, Le mamme. Braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva 1000 modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno che e veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. Mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Rientriamo in studio naturalmente con un altro racconto di Ugo Suman, sempre tratto da Quattro Ciacoe. Santa Cunegonda. Cunegonda, che esattamente di nome? Un nome germanico, presumo, adesso lo scopriremo. Questa la è una di quei sante che qualcuno la sentio nominare, ma che pochi conosce ai nostri giorni, e non se fassi a trovarla neanche sui calendari. Eppure, fra i credenti d'altri tempi, la gavuo i suoi devoti. Arquanti pittori che ha fatto dei quadri che la rappresentava vestia come la suora con l'aureola da santa e qualche cesa che aveva un altare. Poco se guardemo a degli altri santi che ga magari dei cattedrai, ma il motivo per il quale la gera invocà aveva una importanza portentosa fra le donne del me tempo. La gera patrona delle future mame e donne insinte, un compito riservato, delicato e difficile, ma tanto apprezzato. La fede popolare gesuntava un altro compito che sarebbe stata una prolunga del primo e derivava, secondo la mentalità del tempo, da quel suo nome strambo, Cunegonda. E siccome i putei si mettevano a cuna, avveniva facilmente interpretata come una che cuna, cunare, dindoeare, a onda. Cunegonda, i piccoli che piange per farli indormensare. Quando un piccolo finfotava e stentava a ciappare il sonno, e mame invocava Santa Cunegonda. Robe da non credere, anche se te che viste, come quando te capita sotto mano un ricamo favoloso che te pare impossibile che sia sta buoni a farlo, eppure le ha sotto gli occhi. Ma e mame e spose de campagna degli anni venti del secolo passato, conosceva anche la sua storia, che forse non sarà documentata, ma che se credibile perché, magari con parole diverse, a se nominà sui libri sapienziai e anche su qualche enciclopedia. Cunegonda era la moglie di un imperatore potente e geoso che si chiamava Enrico II e che, dopo anni di buona convivenza, forse per cattiveria di qualche cortigian, vedi la storia di Oteo, l'aveva accusata di adulterio. Una accusa disonorante e disastrosa che poteva costargli la vita. A ora non voleva tanto per mettere a morte qualcuno, e una donna ancora più facilmente. Ma siccome sto imperatore che aveva buon cuore, invece che farla copare, e che ha preteso che subisse a prova del fuoco, che s'era come a macchina della verità. E qua vien avanti nella memoria a figura di Mussio Sevoia, perché a prova del fuoco s'era la stessa. È condannato doveva mettere una man sora a fiamma e tenerghea per i quarti minuti. Se si bruciava, c'era colpevole, e io facevo fora a svelte. Se invece la man restava intatta, senza neanche una vissiga sua pe, allora c'era innocente, libero e anche onorato. a Santa Cunegonda che supera sta prova, naturalmente per grazia divina, e suo marito l'imperatore si è tenuto in considerazione fin quando è morto. Una volta resta vedova, Cunegonda che pensava di entrare nella vita monastica, la che fondà l'abbassia di Kaufungen e la si ritirà dal mondo. Ase morta santamente, scrive i storici, verso il 1040 e ase sta sepeia nel domo de Bamberga. Nel 1200 il papa de Aora, Onorio III Romano, l'ha fatta santa e se sta il papa stesso a dichiararla patrona de spose in attesa di un bambino. Come ho detto prima, il fatto de alcuna se venuto fuori dopo, ma la devozione dura secoli e secoli e forse dura ancora in qualche paese. Naturalmente la storia della santa e della sua prova del fuoco veniva contata in maniere diverse, anche nei fiò, ma sempre con la fede e la devozione che meritava. Una mia parente lontana che veniva dalla parte del mio papà mi ha fatto vedere più volte un santin di sta Cunegonda, a quale era devota e riconoscente perché, dopo tanti anni, in età non più giovane, aveva avuto un fiore mascio, bello e san, quando tutti pensavano che ormai fosse massa tardi. A sto punto la storia di Santa Cunegonda può dirsi finia, una delle tante storie dei santi, de fede e devozione popolare. Solo che, volendo, e a me mi piace anche farlo, si può tirargene fuori delle considerazioni che mette in mostra tanti particolari, a dir poco curiosi e anche interessanti. E il tutto della storia, come altre del resto, porta dentro riferimenti evangelici e storici che si fassi riconoscere. È il nobile casato de partenza, un fatto comune a diverse altre spose, vergini e martiri, che si trova nel libro dei santi. È il particolare de accusa de infedeltà da parte del marito, forse istigata a cattiveria da qualche altro, come ho fatto notare pisora, comune a altre storie dove a gelosia si fa tragedia. A prova del fuoco, anche questa con sua e nominane a storia profana, ma anche nella Bibbia, come il segno della partecipazione divina a giustizia degli uomini. E par ultima, a considerazione del tardo concepimento de tante donne attribuito a una grazia del cielo, che trova il suo esempio in quello di Santa Elisabetta, a mamma di San Giovanni e cugina della Madonna. Volendo osservare tutti questi piccoli ma importanti riferimenti che a prima vista può passare inosservati, se può constatare come l'uncinetto che carica ma a storia della fede e dei tante devozioni cosiddette popolari, perché noi aveva l'imprimatur ufficiale di accesa, andava a pescare nel tessuto vitale della storia degli uomini, sacra e profana, per tirargene fuori un unico grande masso di fiori, in onore della santità, della fede e della devozione. Anche questo è molto bello. Molto bello. Beh, decisamente. A proposito, che qualche giorno fa è stata la festa della donna, e non mi ricordo più dove ho sentito appunto che c'era, non so se una psicologa, no? Adesso la donna è strumentalizzata. Io dico che si lascia strumentalizzare anche in televisione, che si presentano così in un certo modo, insomma. Assolutamente, ma quello è sicuramente un lato, come dire, deteriore, eccetera, ma quello che io trovo ancora più deteriore è la partecipazione di molte donne, diciamo anche donne di cultura, a dibattiti, come dire, questo gran guignol che si vede nelle televisioni del pomeriggio in particolare, sì, non solo la sera, eccetera. Queste sono cose che chiaramente fanno capire che il presenzialismo, il narcisismo e tante altre cose prendono spesso il sopravvento. Io trovo che la donna, come dire, la donna idealizzata da Dante, eccetera, tanto gentile, tanto onesta pare. La donna mia. Attenzione, io credo che sembra che si vada in tutt'altra direzione. In realtà ho l'impressione che stiamo ritornando a questo dopo la debauche, dopo la stupidità esistenziale, dopo la vacuità di tutte queste cose. È sperabile, Antonio, che si torni. Io non sento ancora questo. Ma no, io sono convinto, perché è sempre una questione di testimonianze individuali, sì, o di piccoli gruppi che fa la storia, certo, non certo. È mai il mainstream, come dicono, la grande corrente, eccetera. Occorre seguire il sentiero stretto. Noi credo che possiamo, con il nostro, così ricordando queste cose, possiamo dare anche un esempio speriamo. Di vitalità e cose di questo tipo, insomma, ecco. Benissimo, anche perché insomma la donna deve, come diceva appunto questa persona, che non prendere mi... coscienza di sé, sì, io credo. Prendere coscienza di sé, insomma, esattamente. Non si può essere strumentalizzati perché magari sei carina o perché... Vabbè, allora siamo arrivati quasi alla fine. Questo è, diciamo, sono considerazioni che naturalmente noi facciamo in piena libertà, senza voler essere moralisti o compagnia, anche se è una parola moralista che adesso sembra avere un'accezione, come dire, fastidiosa, eccetera. Io la trovo invece una parola che dovrebbe essere molto più utilizzata. Appunto, perché insomma una morale... Penso che sia la moralista viene da morale, esattamente. Appunto. Niente, siamo arrivati questa volta molto velocemente, sì, troppo appunto. Velocemente alla conclusione. Ma comunque molto carini quei tre racconti. Simpatica la cultura popolare, così alta cultura popolare. Sì, veramente. Allora Antonio, come sempre io ti ringrazio. Io ringrazio te e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno la pazienza di seguirci. Sì, salutiamo anche le amiche... più lontano, naturalmente, in particolare loro, quelle che ci ascoltano attraverso internet, anche quelle, e ci ascoltano tutte le domeniche, sai? Ah, questo mi fa grandissimo piacere. Sì. E poi mi telefonano lunedì e mi dicono che hanno ascoltato. Allora, con te Antonio, con il nostro regista Eddie Daici, io do la buonanotte a tutti. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.